l'Evangelo per radio. Non avere altri di. Caro amico che sei in ascolto, uno dei tanti ordini che ha dato Dio al popolo di Israele era non farti altri dei accanto a me, non farti dei d'argento né d'oro. Quest'ordine non è altro che il riassunto del secondo, dei 10 comandamenti che Dio ha dato sul monte Sinai e che troviamo ancora oggi scritti su tutte le Bibbie, al capitolo 20 del libro dell'Esodo. Anche il Signore Gesù, che ha insegnato agli uomini la più pura espressione della volontà di Dio, un giorno, al maligno, il quale tentava di allontanarlo dall'adorazione del solo Dio, disse così: «Adora il Signore, il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto». A Lui solo. Ora, se noi diamo uno sguardo alla cristianità attuale, vediamo che questo comandamento è quello che viene trasgredito di più di tutti gli altri comandamenti, anche da parte di chi è abbastanza abituato intorno alle cose di Dio. È facile accertare che un numero incalcolabile di cosiddetti credenti abbia eretto il proprio io quale Dio. Cioè l'uomo è legge a se stesso, perché in se stesso fonda il centro di tutte le affezioni, le cure e le preoccupazioni della vita. La religione è intesa come un mezzo eccezionale dal quale si esigono aiuti straordinari in proprio favore. In conclusione, Dio viene sempre invocato per un unico e medesimo scopo. Signore, benedicimi! Ma noi leggiamo nella Scrittura che Dio si definisce un Dio geloso. Egli esige innanzi tutto che si elegga a Lui quale centro di tutti gli affetti, come lo sposo esige l'assoluta fedeltà della sua sposa. Se la sposa si comporta altrimenti, essa provoca in lui la gelosia e la punizione. Che cosa dovremmo pensare di un Dio tre volte santo? Dobbiamo stare molto attenti alle esigenze di Dio, perché possiamo provocare la sua ira e così la sua punizione. Dio esigue dunque la signoria assoluta sull'uomo, e più volte lo dice nella Scrittura. Il profeta Geremia infatti dice: «Si sono allontanati da me, sono andati dietro a vanità e sono diventati essi stessi vanità». «Oh cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti», dice l'Eterno, «poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e esse, è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Dio esige che le sue creature umane abbiano comunione soltanto con Lui, vuole che l'adorazione convenga tutta su di Lui, che la fede abbia per origine solo Lui, perché Egli sa di essere la sola fonte di vera vita, la vita veramente beata. Uno degli scopi di Satana, il guastatore della creazione di Dio, è quello di indurre le creature umane a fare cattivo uso della fede. Infatti, noi troviamo scritto nei libri dei Romani che gli uomini hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura invece che il creatore. Il Dio considera idolatro non solo chi si fa un vitello d'oro, ma chiunque presta un culto a qualche cosa, o a qualcuno che non sia lui. Ci è da riflettere seriamente. Quante deformazioni disastrose ha subito il cristianesimo storico? Esso ha decretato la vera adorazione separandola da Dio sulla creatura umana. La creatura è diventata Dio. E questo non è altro che un presagio degli ultimi tempi, quando la Bibbia dice che arriverà il tempo in cui un uomo si siederà al posto di Dio dicendo di essere lui Dio. Caro ascoltatore, non credere che sia difficile da trasgredire questo comandamento, anzi per esperienza, possiamo dire che è la cosa più facile da farsi. Perfino il popolo di Israele, il quale aveva realizzato una salvezza particolare, e aveva fatto delle esperienze uniche con Dio, pian piano è scivolato nell'idolatria. Sì, l'idolatria è legata al cuore d'ogni uomo. L'uomo dimentica ben presto il suo creatore e, senza accorgersene pian piano, la sua affezione si sposta da Dio sul proprio simile. E tutte le volte che noi mettiamo in risalto l'opera di un uomo, tutte le volte che noi facciamo leva su ciò che una creatura umana ha compiuto, noi stiamo trasgredendo il secondo comandamento. Non a caso l'Apostolo Giovanni, alla fine della sua prima lettera, quasi come distaccandosi da tutto ciò che aveva scritto precedentemente, dice: «Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Di idoli non aveva parlato fino a quel momento. Egli aveva presentato la salvezza sotto vari aspetti, ma aveva sentito il bisogno di terminare la sua lettera dicendo: «Figlioletti, guardatevi dagli idoli». Giovanni sapeva che non è cosa più facile che cadere nell'idolatria. Quindi, l'esortazione di Dio a non farsi altri dei accanto a lui è quanto mai attuale. È giusto sottolineare il fatto che Dio dice proprio di non farsi dei accanto a lui. Egli solo, esclusivamente lui, è degno di essere amato, servito, onorato. Solo lui è degno di ricevere la forza, l'onore e la gloria per sempre. Se tu ti ritieni un vero credente in Dio, se tu ti ritieni un suo figlio, sappi che devi ubbidire a questo importante comandamento. Non ti stiamo insegnando di appartenere a una religione, non ti stiamo spingendo a seguire una corrente religiosa, ma ti invitiamo a porre la tua fede unicamente nel Dio che ti ha creato e ha dato il suo figliolo a morire per te. Non farti quindi altri dei accanto all'Iddio vivente e vero, e tu sarai un vero cristiano.